Una bella soddisfazione, no? Quella di ricevere dalle mani del presidente Messina questo premio. Innanzitutto partiamo dal vostro progetto, come è nata l'idea? Beh, l'idea è nata quasi per gioco, c'era la volontà di provare a mettersi alla prova, diciamo, e appunto abbiamo scoperto questo concorso, abbiamo deciso di provarlo. E il tema ci era sembrato subito molto accattivante, era stimolante, e appunto abbiamo provato a reinterpretarlo a nostro modo. Qual è la linea conduttrice, diciamo così, del progetto che vi ha permesso poi di vincere? Cosa è piaciuto particolarmente alla giuria? Beh, noi pensiamo che il punto forte del progetto sia il modo in cui noi abbiamo pensato che esso possa inserirsi in un contesto urbano, come quello di aree periferiche milanesi, soprattutto nei pressi di reti infrastrutturali particolarmente ingombranti e rumorose, come quella può essere la rete ferroviaria, e la possibilità, il fatto che il progetto sia comunque modulare, quindi il fatto che possa avere in teoria uno sviluppo infinito e una possibilità, che offre una possibilità di aggregazione di questo modulo molto, molto ampia. Adesso è una cosa difficile, prova a spiegarlo agli ascoltatori della radio, che cos'è il vostro progetto, prova a farci un po' una cartolina, una fotografia del vostro progetto. Sì, noi siamo partiti da un'idea base, abbiamo scelto un'area di Milano che è via Giambellino, per chi la conosce, e in quell'area c'è un parco, un'area verde, parco è una parola grossa, è un'area verde completamente abbandonata a ridosso della ferrovia, della linea ferroviaria Milano-Torino. E beh, noi crediamo che inserendo una barriera antirumore, dotando questa barriera di un certo spessore e quindi rendendola poi anche abitabile, fruibile dagli ospiti che verranno a visitare l'Expo del 2015, si possa creare un'occasione per ricaratterizzare, riqualificare quell'area verde, quindi anche a beneficio dei residenti, e possibilmente, auspicabilmente, di instaurare delle dinamiche, delle relazioni, degli scambi tra gli ospiti stranieri, che sono previsti in particolare, cioè, essere dei giovani, dei ragazzi, e ancora i residenti, quindi per dare un'iniezione di novità, d'aria ad una zona che invece, benché abbia delle tradizioni anche culturali non indifferenti, ultimamente è decisamente in secondo piano. Ma voi nell'Expo 2015 ci credete? Che idee vi siete fatte così a distanza ancora di 5 anni? Secondo voi i progetti come il vostro, come quello dei vostri colleghi che hanno partecipato, possono trovare del successo, della fortuna? Beh, personalmente penso di sì, in quanto comunque l'Expo, in generale gli Expo sono delle occasioni per sperimentare. Quindi può essere che se in circostanze particolarmente favorevoli, con questo intendo magari un'amministrazione pubblica particolarmente dinamica, interessata a proporre delle idee nuove, trovando quindi particolari circostanze, può essere che progetti del genere vengano costruiti. In generale penso che comunque l'Expo sia comunque una grossa occasione per qualunque città si trovi ad ospitarne uno, e soprattutto poi per dei giovani, diventa una vetrina, abbiamo visto anche per esempio in questo caso, quindi ben appunto 5 anni prima dell'apertura dell'Expo, diventa un'occasione anche per ragazzi come noi che si trovano alle prime armi, ecco, con questi argomenti, con queste questioni. Ultima domanda, poi vi lascio, ovviamente tu e le tue due colleghe. Le vuoi ricordare tu? Sì, Elena Panza ed Elisa Fortuna, laureande, quindi in bocca al lupo per il corso di laurea specialistica in architettura per la costruzione allo UAV di Venezia. La vostra carriera futura, e qui concludiamo, come la vedete? Siete fiduciosi, ottimisti anche qui, oppure c'è qualche nube di troppo all'orizzonte? Beh, ci rendiamo conto che il momento storico non è dei migliori, però anche circostanze come questa ci fanno ben sperare, quindi siamo ottimisti e ci impegniamo, ci tireremo sulle maniche e vediamo.